Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ci sono, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, tante di quelle brutte notizie, tanto per tirarvi su un po' il morale, che quasi mi viene voglia di dare ragione a Medvedev, il primo ministro russo, no, l'amico insomma di Putin, in realtà Putin che poi è diventato presidente, primo ministro, eccetera, eccetera, il quale ha detto che bisognerebbe mettere un tetto alle cattive notizie, alle notizie, bisognerebbe metterle fuori legge, nel senso non più del 30% perché deprimono le persone. Ora diciamo che lì in Russia, essendo il paese che è, nonostante lo trattiamo un po' come un paese democratico, l'idea, la proposta è sicuramente, diciamo, altri fini, no? Quella di nascondere, di insabbiare, di mettere il famoso bavaglio all'informazione, alla libertà di informazione, ma in Italia forse, diciamo, alleggerirebbe un po' il clima, però sappiamo che insomma è meglio sapere tutto, essere consapevoli di quello che succede. E quindi inizierei subito intanto dandovi il numero verde per le vostre opinioni, come sempre, sulle notizie della settimana. Sapete che questo è il mio appuntamento con voi tutti i sabati dalle 14 alle 15 per fare il punto sui fatti, tanti fatti che si susseguono durante un'intera settimana, e naturalmente esprimere le vostre libere opinioni. 800 24 00 24, numero verde. Quindi non solo gratuito, ma numero ecologico, perché evitate di disperdere nell'ambiente energie, pensieri e tempo. Soprattutto li convogliate qui, non ci sono più le mezze stagioni. Quindi, diciamo, ci accoglie immediatamente in primissimo piano questa immane tragedia, no? Negli Stati Uniti, questa strage che c'è stata ieri in serata, ora italiana naturalmente, in una scuola elementare. Sapete, questo ventenne, evidentemente preso da follia, che ha ucciso 20 bambini, 29. 26, poi i dati ancora non sono fino in fondo certi, ma insomma una trentina di persone tra queste 20 bambini tra i 5 e i 10 anni. Obama in lacrime dice: rinnoveremo il bando sulle armi d'assalto. A parte armi d'assalto che uno può fare non solo col Kalashnikov o il bazooka, può fare strage anche con una pistola. Ecco, il problema degli Stati Uniti, che lo sapete, è da anni e anni, decenni che se ne parla di questo problema, che tutti possono andare in un negozio di armi e prendersi una qualsiasi pistola, una mitragliatrice, eccetera. È inutile che continui a dire rinnoviamo il bando se questa nulla, nessuna iniziativa seria viene presa in questo senso. È veramente un paese con tante di quelle contraddizioni che a volte sono fin troppo pesanti. E poi invece, per quanto riguarda l'Italia, il clima è quello delle annunciate dimissioni di Monti, di Berlusconi, che ha fatto una specie di valzer, devo dire, quasi acrobatico, e poi ne parleremo, se ho capito bene la sua posizione, insomma. Comunque al vertice del Partito Popolare a Bruxelles, Partito Popolare Europeo, tutti hanno acclamato Monti e hanno proprio anche auspicato che ci sia un Monti bis. Qualcuno lo chiama ingerenza, qualcuno dice che insomma è una specie di autodifesa. Parleremo anche di questo. Berlusconi dice però che lui è stato coccolatissimo. Dall'esterno, diciamo, non è sembrato così, ma questa è la sua convinzione. E poi, a proposito della crisi, il ministro dell'economia Grilli dice: il peggio è passato, siamo sulla giusta direzione. L'Italia non ha bisogno di aiuti, anzi il Financial Times poi ha decretato Draghi persona dell'anno perché ha salvato l'euro. Però poi arriva proprio di ieri, l'altro ieri, la notizia del record del debito pubblico italiano, che avrebbe sfondato i 2.000 miliardi di euro. Insomma, stiamo piuttosto bene. E a seguito di questo anche il bollettino della Banca d'Italia, che dice, a proposito di crisi, a proposito della forbice che si allarga tra chi è ricco e chi lo è meno, la ricchezza, il 45% della ricchezza, 45,9%, quindi quasi un 46% della ricchezza, è concentrata nel 10% delle famiglie italiane. Poi c'è la nuova inchiesta sulla regione Lombardia, parrebbe che con soldi pubblici, c'è anche Minetti, c'è anche il Trota, avrebbero speso allegramente dai lecca lecca alle salsicce, ai libri, iPad, cene, eccetera, eccetera. E poi tutta la questione delle primarie per i parlamentari anche del PD. Questa è una mossa di Bersani, che molti hanno visto come una mossa strategica che lo vede ancora più rafforzato. Voi che ne pensate? Tra l'altro, vi ricordo che oggi nella regione Lombardia si faranno le primarie per decidere il candidato presidente della regione, sempre del PD, tra Ambrosoli, Di Stefano e Kusterman. Grillo che lancia i suoi anatemi ed ha espulso Salsi e Favia col suo anatema, e in più sembrerebbe un po' calare nei sondaggi, ma qualcuno dice che è una questione fisiologica. La vicenda dell'Ilva, come sempre, Pyongyang, la Corea del Nord tutta festeggia il lancio del razzo. Chissà cosa ci sarà a festeggiare questo lancio del razzo. Il maltempo con la neve. E volevo aggiungere anche il Papa, che è tornato di nuovo ieri con un anatema nella giornata della pace, per celebrare la giornata della pace. Cosa ha detto, fra le altre cose? Che le nozze gay sono un'offesa alla verità e un attentato alla pace. Ora io mi dico, non so voi, ho come un'impressione che il Papa, che dovrebbe occuparsi ben di altre cose, ha una specie di ossessione nei confronti dell'omosessualità, nel senso che si dice che è contro la pace. Avesse fatto speso, diciamo, una parola contro le tantissime violenze, le guerre massacranti, le torture in giro per il mondo, contro anche le violenze che costantemente, il femminicidio che si consuma, diciamo, settimanalmente in Italia ogni due giorni. Anche questo ragazzo che ha ucciso ieri 20 bambini negli Stati Uniti è figlio di famiglie cosiddette normali, eterosessuali, quindi diamo delle parole su queste cose. Magari mettiamo al bando, diciamo che negli Stati Uniti devono essere messe al bando le armi, che gli F-35 in Italia forse sono soltanto una spesa immensa in un momento di grande crisi. Queste sono le cose contro la pace. Vorrei che qualcuno, diciamo, un po' più vicino al Papa di me, se riuscisse a mandare questo messaggio. Ma adesso è naturalmente anche tempo di dirci che cosa ci conferma che anche questa settimana non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere sono un granché. Si dice ormai da anni che c'è il rischio progressivo del surriscaldamento del pianeta, e su questo non ci piove. E tra, diciamo, i luoghi e gli elementi più a rischio, l'Amazzonia, no? Chi è che non ricorda anche quando eravamo piccoli l'Amazzonia? Sente parlare sempre dell'Amazzonia, la distruzione dell'Amazzonia, non solo naturalmente per fare la carta, ma anche come grande polmone mondiale che rischia di scomparire per il surriscaldamento. Ebbene no, gli alberi dell'Amazzonia, contrariamente a quanto immaginato finora, potrebbero resistere invece ai cambiamenti climatici. È questo uno studio pubblicato dalla rivista Ecology and Evolution, coordinato da un professore britannico del University College of London, quindi una cosa molto seria, e che dice ha fatto un'analisi genetica di alcune specie arboree amazzoniche, e la ricerca basata sull'analisi proprio del DNA di questi alberi ha svelato l'età sorprendente di alcune specie amazzoniche, che arrivano, pensate, a superare 8 milioni di anni, e che in passato sono sopravvissute a periodi caldi, freddi, analoghi a quelli previsti per esempio intorno al 2100. Quindi parrebbe che in realtà qua ci sia una controtendenza, resisteranno gli alberi dell'Amazzonia. Con questa buona notizia io direi, signore e signori, di andare a presentare l'opinionista estemporaneo di oggi. Carissimo Oliviero Bea. Ciao Roberta, buongiorno a tutti. Ciao. Tu sei sempre in mezzo a qualcosa, mi sembri in un bar a una pasticceria dove si spendono sui 15.000 euro di solito, da quello che ho sentito della regione Lombardia. Meno. Bignè è molto modesti. Ah, va bene. Ricovero dalla pioggia. Contenti, perché lì a Roma sta piovendo. Sei a Roma tu adesso? Sì, a Roma. Anche qui a Milano sai che è nevicato molto, c'è una leggera pioggerellina prima. Diciamo che un po' dispiace vedere tutto questo bianco che si scioglie, però è più funzionale, no? La regione Lombardia avranno pensato a qualcosa, immagino, sì. per godere di questo. Evitare questo. No, per godere, visto quello che sta succedendo nell'inchiesta. Ah, dice. Al giorno saranno passati dai Lecca Lecca e Passamontagna. Può darsi, insomma. Poi chiederemo se qualcuno vuole anche aggiornarci su questo. Oliviero Bea non ha bisogno di presentazioni, tra i suoi piattini e cucchiaini, mentre sentiamo i rumori di sottofondo, è giornalista, scrittore, saggista, autore teatrale, conduttore naturalmente radiofonico e televisivo. Brontolo, la sua trasmissione lunedì sera su Rai 3, e poi anche Telepatia, sempre su Rai 3 stasera, sabato sera? Sì, il Bronto solo il lunedì mattina alle 9 del mattino, invece telepatia è poco prima di mezzanotte. Su Rai 3 questa sera, quindi lo ritrovate Oliviero Beppe, diciamo in carne ed ossa, più in figura, ecco, che non così in voce. Tra l'altro, ultimo libro di Oliviero Beppe è Il culo e lo stivale, i peggiori anni della nostra vita, con la prefazione di Battiato, che è molto, sempre molto attuale. Ne abbiamo parlato mesi fa, però è sempre molto attuale, no Oliviero? Pensiamo di sì, il manuale di deberlusconizzazione, inteso non solo nei confronti dell'ex premier, ma nei confronti di uno stile di vita che abbraccia, diciamo così, destra e sinistra, cioè tutto il paese. E questo manuale di deberlusconizzazione credo che non passi di moda, soprattutto di questi temi. 800 24 00 24, qual è la notizia sulla quale volete tornare a parlare, a esprimere la vostra libera opinione? Intanto, Oliviero, tu sai che la fine è vicina, insomma, no? Accidenti, il governo è dimissionario e la fine è vicina, e i Maya occhieggiano la situazione. No, ma niente di tutto questo, Oliviero, scusami, voglio dire la profezia della fine della pasta, ecco, perché sembra che gli americani, con toni apocalittici, anzi sulla copertina del Newsweek, del settimanale Newsweek, ci sia il titolo The End of Pasta, cioè la fine della pasta, e c'è come immagine un punto interrogativo formato da pennette rigate e farfalline, e c'è questo allarme lanciato perché dicono gli americani, se gli esseri umani vogliono continuare a mangiare pasta, bisogna appunto prendere provvedimenti nei confronti del surriscaldamento del pianeta, perché tra l'altro i cereali sono i primi a risentire, al di là degli alberi dell'Amazzonia che sono forti, invece abbiamo scoperto. Quindi rischiamo, io devo dire, sto per dire una bestemmia, io come italiano, beh, la pasta non mi piace, a parte le orecchiette, gnocchi e lasagne, diciamo, quindi non sentirei questa grande perdita, ma devo anche considerare il resto del mondo. Tu saresti molto dispiaciuto della fine della pasta? Mi sembra poco logico, visto che si lamenta sacrosantemente i rischi del pianeta per di mangiare troppa carne, perché la carne significa il fatto di animali che devono brucare, mangiare, e quindi tutto il processo che adesso vi risparmio, ma che è facilmente ricostruibile, e adesso viene fuori che non va bene la pasta. Io mi contenterei di disarmare gli americani per legare le due notizie insieme, quelle della tragedia e questa copertina, no? Non basterebbe già questo per farci andare a letto più tranquilli? Ma insomma, comunque, ecco, la fine della pasta sarebbe dovuta anche questa sul riscaldamento, ma io non sono così pessimista, non sul riscaldamento, sulla fine della pasta. Il numero verde, già cominciamo a introdurre un ascoltatore, ascoltatrice all'800 24 0024, Maria da Genova. Pronto? Maria. Buonasera a tutti. Come vanno le condizioni climatiche? Ieri era molto in difficoltà. Molto migliorate. Io però sto in basso, sulle alture, non so come sia. Se ti arrivasse qualche messaggio, se tu volessi informarti anche sulle alture, poi dopo ci aggiorni più tardi. Maria, ma qual è la notizia della settimana, la tua notizia? È una notizia non proprio giovanissima, più della settimana scorsa. Mi riferisco al reiterarsi del conflitto di interessi tra i poteri dello Stato, che è piuttosto allarmante. Abbiamo cominciato con la vertenza tra Presidente della Repubblica e Procura di Milano, abbiamo proseguito con non i decreti... Non era la Procura di Palermo, forse? Sì, di Palermo, sì. Chiedo scusa. Abbiamo proseguito con i decreti anti-giudici a Taranto, mi sembra, non parliamo del ricorso al voto di fiducia che esautora il Parlamento, e mi sembra che questo conflitto di interessi sia particolarmente pesante, perché all'estero chiaramente discredita il Paese, e all'interno mi sembra un messaggio che va verso un regime totalitario, perché il fatto che l'esecutivo voglia guidare il potere legislativo e quello giudiziario quando dovrebbero essere alla pari secondo la Costituzione, non mi pare un bel messaggio, un bel evento. Maria, non penso, diciamo, che ci muoviamo verso un regime totalitario, però effettivamente fai degli appunti che mi sembrano degni di ragionamento, di argomentazione. Grazie Maria, che ne dici Oliviero Beppe? Ne dico che effettivamente il Demestre e i tre poteri in Italia hanno avuto un percorso accidentato. Per esempio al Presidente della Repubblica si è sempre riconosciuto un ruolo autorevole di un certo tipo, ma non interventista, mentre ultimamente le cose sono cambiate, forse bisognerebbe ragionare anche costituzionalmente su questo, solo che chi lo può fare? Una politica impresentabile e incredibile, inattendibile? No, e quindi ci troviamo con una situazione di bocce mai ferme come quella che che riguarda appunto il conflitto fra il Presidente della Repubblica, Mancino, che all'epoca era Ministro degli Interni, una questione delicatissima come la faccenda dei pizzini, dei pezzi dello Stato e della mafia di allora, le stragi e via dicendo, dopo Falcone e Borsellino, beh, insomma, e poi naturalmente la Procura di Palermo è un pasticcione in cui mi pare che la Procura di Palermo abbia fatto solo il suo dovere. Però adesso pare che insomma la ragione penda dalla parte di Napolitano, no? La ragione di chi? E questa è la domanda. La ragione della Consulta, ma sì, ho capito, pensa che il costituzionalista Zagrebeschi, presidente emerito, aveva scritto su Repubblica: non può non vincere Napolitano in una gara impari, quindi, e questo perché è impari, fa. Tu dici? Luigi è impari perché è difficile la Consulta dia torto al presidente della Repubblica in una circostanza come questa. Luigi da Roma invece, qual è la tua notizia, Luigi? Buongiorno, mi ha stuzzicato quello che ha detto Oliviero Bean, mi posso agganciare tralasciando un attimo quello che volevo dire o sono obbligato alla cosa che non so neanche cosa volevi dire, Luigi, quindi allora ti dico quello che volevo dire, poi sì. Se mi dai un minuto mi aggancio a quello che ha detto Oliviero Bean sul Presidente della Repubblica e conflitto di attribuzione, sì, ma quello che volevo dire era che è gravissimo, o a mio avviso anzi direi quasi vergognoso, se l'aggettivo non evocasse un giudizio morale che in questi casi è meglio evitare, che negli Stati Uniti con almeno 5 presidenti democratici che si sono succeduti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale nessuno abbia avuto il coraggio di proporre una legislazione che ponga un freno all'uso libero e indiscriminato delle armi, che si avvicini alla legislazione europea, al porto d'armi, ai controlli, ovviamente tutti possono essere evasi anche questi controlli, ma è meglio che ci sia un freno affinché non ce ne sia nessuno. E mi meraviglia che un Clinton e un Obama al secondo suo mandato non abbia pensato, dopo tante stragi, fra cui quella famosa portata sullo schermo da Moore, Columbine. Sì, credo che il problema, Luigi, sia quello delle fortissime lobby dei produttori delle armi, non so se soltanto quello, anche cattiva volontà dei presidenti che si sono succeduti, specie quelli democratici che dovrebbero essere un po' più sensibili a questo argomento, perché è forte la pressione invece della destra perché si mantenga questa cosa. Poi Luigi, se vuoi proprio sinteticamente agganciarti a quello che diceva prima Oliviero, molto sinteticamente. Il Presidente della Repubblica Napolitano, che io stimo moltissimo, però negli ultimi tempi ho motivo di muovergli una forte critica, nel senso che lui parla ogni giorno in modo informale e non ha mai usato il modo formale, che è quello riconosciuto dalla Costituzione, del messaggio alle Camere, così svilendo anche le Camere, che è il suo interlocutore privilegiato, oltre che la sua Camera di elezione. Quindi fai una questione di stile e anche di istituzionalità. Quasi, come si dice, si inflaziona la parola del Presidente e quindi poi si svaluta in un certo senso. Grazie Luigi. Adesso Oliviero, cominciamo da quest'ultima cosa, poi andiamo anche sulle armi. Sì, beh, la forma è sostanza sempre e soprattutto in queste circostanze, quindi quello che diceva l'ascoltatore è giusto e molto più sensato e mirato di quello che potrebbe sembrare, cioè non è un rilievo marginale. Quanto al fatto di stimare o non stimare Napolitano, non è questo il punto è un Presidente della Repubblica di ruolo che fa certe cose, per esempio non abbiamo mai saputo che cosa si sia detto su una materia così delicata con Mancino, perché... Cioè dici lui avrebbe avuto il dovere di chiarire, no, e dire so sì, con Mancino al telefono ho detto questo e quest'altro. In una situazione diciamo degenerata a questo punto, io penso che forse sarebbe stato nell'interesse dell'istituzione che la presenta far sapere che cosa si sono detti. A maggior ragione se tutti sono d'accordo sul dire che non è penalmente rilevante. Benissimo, allora se è politicamente rilevante lo dicano. Senti, voglio sapere, Oliviero, come ti guardano le persone intorno a te mentre tu parli al telefono? Argomenti? Sono interessato perché sono uscito dal bar dove mi sono rifugiato per andare a rischiare la pioggia insieme ad altri che parlano al telefono come me, per cui forse stanno tutti ascoltando radio 24, mi pare il minimo, non ci sono più le mezze stagioni, di anche a loro 800 24 00 24 se vogliono intervenire. Oliviero, invece, sulla questione effettivamente annosa delle armi negli Stati Uniti, che quasi pure i bambini momenti possono andare e comprarsi la pistola personale, no? Dunque, fa faccio un'osservazione propositiva invece che critica negativa. Sì. Visto che ha il secondo mandato e nessuno lo deve più rieleggere, perché Obama non sferra una campagna contro la lobby delle armi? Qualcuno faccia arrivare anche questo messaggio, se mai anche Barack fosse in ascolto, perché a volte può succedere anche via internet, no? Uno sente in streaming e così la radio. Ecco, Obama, Barack. È un modo per dire che si può misurare la onestà politica e la qualità politica di Obama in questa direzione da questo. Non deve nemmeno rischiare più la rielezione, bene, la faccia. Io Obama direi di non lasciare cadere questa proposta, mi pare piuttosto intelligente e sensata e di valore, di Oliviero Bea. Sentirei ancora il numero verde 800 24 00 24, prima di spostarci anche sulle altre notizie. Da Bergamo chiama Cristiano. Pronto? Cristiano? Sì, ciao, buongiorno a tutti. Niente, io volevo... Io ho un punto interrogativo un po' sulla figura un po' di Monti, sul governo Monti, su quello che sarà. Sì. Mi viene da dire, oggi effettivamente è facile presentarsi, no? Non mi sembra che ci sia un'alternativa credibile, dato il passato dei nostri politici. Ma il mio punto interrogativo è, si dice che Monti ha salvato l'Italia... volevo proprio chiedere magari anche al suo ospite, Oliviero Bea, sì, se effettivamente secondo lui questa cosa è successa, perché io non riesco a capire. L'indicatore non può essere solamente lo spread, perché sentivo ieri che il debito pubblico è ai massimi storici, continua a crescere, c'è il tasso 2000 di disoccupazione, esatto, il tasso di disoccupazione continua a aumentare, continuano. Come si fa a valutare se effettivamente questo paese è salvo e da che cosa? Cioè, non penso che sia solamente legato a una questione di spread, quando poi a guadagnarci sono veramente... Mi sembra che Monti in questo momento stia facendo molto più gli interessi della Francia e della Germania che dei cittadini italiani. Cristiano, prima di lasciarci, dimmi chi voteresti tu in questo momento, visto che si vota tra due mesi praticamente. Io adesso onestamente non mi sento di votare nessuno. Guarda, ho sentito... mi è piaciuto... nei discorsi che sta facendo in questo periodo Tremonti, ma non so se mi azzarderei a votarlo onestamente. Va bene, grazie Cristiano. Okay. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Oliviero, senti, quindi da che si capisce qual è il criterio per dire che Monti ci ha salvato? Perché non siamo come la Grecia a questo punto o cosa? E io sono totalmente d'accordo, sia pure sviluppandolo diversamente, sul discorso che ho appena sentito fare all'ascoltatore di Bergamo, a Cristiano, perché effettivamente ha messo una toppa inizialmente allo sputtanamento del paese e del governo del paese con Berlusconi, Monti, ma poi gradualmente le cose sono precipitate, non ha messo mano a una serie di cose. Per esempio, cito una di quelle cose che secondo me dovrebbero stordire gli ascoltatori e gli italiani in genere. Noi spendiamo tra i 3-4 euro per alunno come dotazione didattica, in Europa la media è 30 e la Germania ne spende 45, la Svezia e la Danimarca, i cosiddetti paesi civili o civilissimi, 60, e noi fra i 3-4, 30 anni fa ne spendevamo 20, l'equivalente di 20 euro. Allora, se andiamo così indietro, non è possibile che uno che mette la toppa allo spread non metta la toppa allo spread culturale del paese, lavorando sui giovani, sui ragazzi, sulla scuola. Forse c'era poco tempo? C'era forse poco tempo? Che vuol dire poco tempo? Ha fatto delle cose invece che fanno in certe altre. Certo, ha salvato le banche, ma se noi siamo ostaggi delle banche potremmo riesserlo dopo domani. Quindi voglio dire, bisogna stare molto attenti. Io credo molto positivo la toppa iniziale di Monti e molto preoccupante quello che è successo dopo. Forse quello che è mancato anche è una tra le promesse che aveva fatto, quella di stabilire l'equità, che mi sembra forse la cosa più latitante, l'elemento più latitante adesso. Che dici, Oliviero? Sciorinato come in un rosario di dolore all'inizio della trasmissione, mi pare che siano significativi, insomma, davvero quel 10% delle famiglie italiane che c'è il 50%, soprattutto non è una questione ideologica, che così non si può vivere, tutto qua, non è nemmeno dire ma non è giusto, non è morale, sì, non è giusto, non è morale, ma lasciamo perdere la giustizia e la moralità, che sono criteri che sembrano obsoleti e anacronistici, rimaniamo alla sensatezza. Ma come può vivere una società di un 100% con questi numeri? Non può vivere. Poi sentiamo se ci sono anche delle soluzioni, naturalmente, e devo dire che sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni molti ascoltatori e molte ascoltatrici sono intervenuti sia sull'ipotetico, che non si capisce ancora, ritorno di Berlusconi, sia su un possibile Monti bis, insomma sul destino dell'Italia, diciamo, proprio alla vigilia della fine del mondo, per dirlo sinteticamente. Ci sarebbe un collegamento con un altro pianeta che voi sapete abbiamo con il satellitare, molto complicato a un certo punto della trasmissione, però vorrei dare precedenza ad Alessandro Alessandro da Roma all'800 24 00 24. Alessandro. Sì, buonasera. Buonasera, buongiorno. Io volevo dire una cosa breve sul messaggio del Papa sulla pace. Sì. Io sono rimasto anch'io un po' colpito quando ho visto il lancio di agenzia che diceva le unioni gay sono una ferita per la pace, una minaccia per la pace. Sì. Più degli F-35. Vabbè, io sono cattolico e mi sono letto il messaggio del Papa, come non letti tanti altri. E quello che mi colpisce, come sempre, è che sui giornali o sui lanci di agenzie, forse per esigenza di brevità, viene sempre estratto un pezzo dal tutto. Allora io volevo solo dire questo, il Papa è un fine ragionatore, no? Poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, però è un fine ragionatore, dice perché il cristiano è attaccato alla pace? È attaccato alla pace perché è attaccato alla vita. Allora dice, se io devo promuovere un luogo principe della vita, promuovo il matrimonio, che è il luogo in cui, non per verità di fede, ma perché è un'evidenza, la vita ha luogo, cioè la vita... Scusa Alessandro, ma difendere la famiglia nel senso tradizionale non comporta necessariamente discriminare gli altri che vogliono stare insieme, che vogliono amarsi. E questo è il fatto di non capire che il diritto dell'altro non deve negare quello di un altro. La Chiesa tradizionalmente dice non è giusto per affermare un bene negarne un altro. Ah, lo dice, però mi sembra che non lo metta in pratica. Però mi sembra che non si metta in pratica. Scusi, non l'ho interrotto. No, scusa, ho interrotto io te, ma per dirti Alessandro che questo mettere sempre in modo conflittuale gli uni contro gli altri, se salvaguardiamo questi non dobbiamo salvaguardare gli altri, o per difendere questi è meglio quindi che gli altri non abbiano quasi diritto di cittadinanza, mi sembra una cosa assurda e mi sembra veramente ormai fuori da qualsiasi tempo e logica, Alessandro. No, ecco, però secondo me è più esacerbato dalla modalità di presentazione di questa cosa. Secondo me è soltanto un voler dire, è un'evidenza della realtà il fatto che il posto naturale e principale in cui ha luogo la vita è il matrimonio, dopodiché ha diritto di cittadinanza a tutto il resto, ma non è la stessa cosa. Senti, allora intanto io direi Alessandro che ciò che è naturale è ciò che esiste, nel bene e nel male, quindi naturale bisogna capire anche bene cosa si intende come naturale, dopodiché mi pare veramente... ingiusto e anche pericoloso rapportare il concetto di pace a quello dell'omosessualità come fossero in contraddizione. A me pare molto pericoloso e molto ingiusto. Comunque ti ringrazio del tuo intervento, Alessandro. E il numero verde per voi è sempre 800 24 00 24. Ma adesso, prima di sentire Antonino e prima di avere il collegamento con l'altro pianeta, volevo chiedere a te, Oliviero, se riesci a darmi, non so se si chiamarla una lettura, un'interpretazione, un'esegesi, una diagnosi. Comunque, Berlusconi nell'arco di un'oretta, poco più, due giorni fa, cosa ha detto? Alla presentazione del libro di Vespa. In questo momento io sono il candidato premier. Pochissimo dopo ha detto, se Monti si candida faccio un passo indietro. Poi ha detto Monti premier con i moderati, poi ha detto Alfano è il premier candidato, è in pole position per Palazzo Chigi. Poi... ha detto rilancio su Monti se tiene dentro anche la Lega, e poi senza accordo con la Lega andranno giù Piemonte e Veneto, e poi ha detto, mi pare ieri, io se Monti rinuncia io corro, ma corro per vincere. Casini in tutto questo, ha dato la sua interpretazione dicendo è in evidente stato confusionale. Qual è la tua diagnosi? Giusto per fare intanto chiarezza. Berlusconi non ha detto soltanto come ultima cosa corro per vincere, ma ha detto corro anche per difendere i miei affari. È vero, la prima volta che l'ha detto. Che trovo una cosa, allora può essere interpretato come il sintomo della malattia di cui parla Casini, addirittura il siero della verità, oppure come come una battaglia contro l'ipocrisia imparante, finalmente ha detto, si è liberato, basta, è vero, lo faccio veramente. Sì, via il dente, via il dolore. Dunque, ha detto per i miei interessi e quelli del paese, aggiunto. Sì, ha detto prima per i miei interessi, perché anche questo è bellissimo. No, ha detto la verità, quindi onore al merito. Il problema degli avversari di Berlusconi 9 volte su 10 è la doppia verità, l'ipocrisia che li circonda. Ma detto questo, Berlusconi in realtà sta occupando il suolo pubblico della

mi so comprato sta chitarra e quando il sole scende e muore mi sento un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a far una serenata ma solamente a fare in maniera de fammi un sogno a prima sera. E tra lecca lecca e salsiccia di Norimberga torniamo subito con i piedi per terra, andiamo al numero verde 800 24 00 24. Mi piacerebbe leggere anche ad alta voce, io me ne sono già lette, le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, moltissimi commenti sull'ipotetico ritorno di Berlusconi e molti anche sul possibile Monti bis, devo dire per la gran parte critici. Antonino da Roma. Buongiorno. Buongiorno Antonino. Allora, io intanto una considerazione. Sì. Nei politici oggi c'è un ritorno di voce, sento al telefono. Io non sento questo ritorno. Lo sento io. Beh, comunque a volte ritornano, posso dirlo questo, e l'abbiamo dimostrato anche questa settimana. Sì, però. Beh, intanto sì. Tra i politici oggi pare che il più pulito abbia la rogna. Ma insomma, lo saranno tutti, però diciamo che non se la passano benissimo, non danno una grande immagine di sé. Ecco, è un modo di dire romano questo, sì, lo so. Il più pulito c'è la rogna. Poi volevo anche chiedere cortesemente ad Oliviero, sì. Ma come mai questi deputati o politici o capi di Stato europei si permettono di intervenire sulla politica italiana e dire chi si deve candidare o meno? Questa è una domanda. Considerazione. Sì. Poi, se c'è una cosa che vorrei dire, non è vero che Berlusconi non ha mantenuto tutto. Metà ha mantenuto, perché vede, da quando ha iniziato la politica ha promesso mare e monti. Il mare non l'ha Monti dato, è arrivato. Monti, ecco, scusami se avevo colto subito la battuta. Ascolterò volentieri. Certamente. Oliviero, quando mi dirà perché e come devono intervenire i capi di Stato sulla politica italiana, non mi risulta che noi abbiamo detto agli altri chi devono leggere o meno. Benissimo Antonino, è chiarissima la tua domanda. Questa diatriba tra su quello che è successo in Europa e l'acclamazione di Monti, se questa sia un'ingerenza da parte dell'Europa, degli altri capi di Stato, eccetera, eccetera, oppure come detto, magari un'autodifesa, perché dice non è per altruismo che intervengono con noi o per colonialismo, eccetera, ma per dire se anche l'Italia fallisce, tipo la Grecia, ci sono grossi problemi per noi. Allora, per battuta l'Europa. Per battuta con Antonino, sì. Non è vero che Berlusconi ha mantenuto tutto, ma a quanto pare dai processi ha mantenuto tutte, quindi questo è la prima oggettine, tu volevi dire. Sì, sono questa miriade che è con l'esempio che dà la moglie di Cesare o Cesare stesso al paese. E la seconda cosa, quella di sostanza, insomma, che la democrazia sia troppo spesso oggetto ostaggio delle banche e che la politica lo sia dell'economia, questo è sotto gli occhi di tutti. Il problema vero è che adesso l'Europa sembra preoccupata non tanto che venga qualcuno, che venga Berlusconi dopo Monti, quanto che venga qualcuno dopo Monti, e questo non va bene. Capite bene che se c'è solo Monti sulla piazza è la fine democratica di un paese. Ora si può decidere che il paese venga commissariato, si può decidere che sia bene, male, che la stagione pericolosa lo richieda, però forse lo dovremmo decidere noi italiani. Senti, comunque c'è adesso Grillo, a proposito di poca chiarezza, di confusione, intanto c'è Maroni che lancia Alfano come premier e poi c'è Grillo che dice non avremo un candidato premier, avremo un portavoce. Non so, questo mi pare una notizia di oggi, da Firenze. Sì, poco più di una battuta. Insomma, io non riesco a seguirli del tutto. So che hanno svolto una funzione di drenaggio preziosa per quel che riguarda la protesta. Poi staremo a vedere. Adesso darei spazio. Sì, dunque ci sarebbero Angela da Bergamo, Ennio dall'Aquila. Angela, riesci a essere sintetica? Che abbiamo proprio un sacco di interventi tra pochissimo. Angela. Velocissima. Ma sì, grazie. Io buongiorno a entrambi, perché sì, mi piacete tutti e due. Grazie, mi piace Angela, tutti il resto. Volevo esprimere il mio malcontento perché questa mattina sono andata a votare per le regionali in Lombardia. E mi sono stupita che il voto fosse apertissimo, addirittura aperto ai sedicenni, mentre invece mi ha scocciato parecchio il fatto del voto chiuso per le primarie del PD. Mi è sembrato una supposizione maligna che faccio, mi è sembrato una furbata per salvare il carrozzone vecchio mummificato che sta dietro a Bersani. Grazie Angela. Renzi qualcosa di nuovo poteva dirlo. Grazie, è stata chiarissima, anche se sulle regole non si è capito bene fino in fondo, ma ecco, io forse mi rifaccio anche alle primarie che faranno invece per i parlamentari. Cioè, anche qui un po' di confusione, ma adesso subito dobbiamo andare al nostro appuntamento con Don Severino da Potenza. Caro Don Severino, a te la parola. Ciao Roberta e buongiorno a tutti. E volevo dire semplicemente questo, non so se la notizia è arrivata sia a te che al pubblico, ma l'altro ieri in Vaticano il Papa ha ricevuto la Presidente della Camera dell'Uganda, con tutti gli onori, e la quale ha presentato al Papa la sua proposta di legge da regalare al paese a Natale di rimettere la pena di morte per i gay. Allora capite il messaggio del Papa, che i gay matrimoni sono un attentato alla giustizia e alla pace? È una follia fortissima, siamo fuori. Io non so quando il Papa metterà Gesù Bambino la notte di Natale, se sa chi è Gesù Bambino. Grazie. E questo è Don Severino. Grazie Don Severino. Adesso corriamo veloci verso l'altro appuntamento, che invece è con la nostra linguista della Sapienza di Roma, Valeria Della Valle. Cara Valeria, io direi, con tutte queste discese in campo e ridiscese, questa espressione ce la vorresti un po' interpretare? Un po', sì. Ricordare da quando è nata e che cosa significa. Allora, la discesa in campo, l'espressione, è stata usata da Berlusconi il 26 gennaio 1994 in un messaggio televisivo inviato a tutti i telegiornali. Ora, scendere in campo è un'espressione che certamente non è nuova, come del resto scendere in lizza, nell'arena, nell'agone, no? Significavano nella lingua italiana accingersi ad affrontare una gara, uno scontro, un combattimento. Poi a partire dagli anni Ottanta, anche e soprattutto nel linguaggio giornalistico, ma non solo in quello, ha preso il significato di entrare in politica, nella lotta politica. E dopo che Berlusconi ha usato questo slogan, ecco che si è diffuso nella lingua italiana ancora di più. Come commentare, che cosa dire? Ma tutta una serie di espressioni, da mi consenta a scendere in campo, a mettere le mani in tasca degli italiani, arricchito il vocabolario, il bunga bunga, ecco, tutta una serie di slogan, espressioni, battute, insomma ci siamo un po' tutti assuefatti. Adesso la cosa pericolosa è che un'espressione come scendere in campo e discesa in campo e venga usata anche con riferimento a Monti. Allora non vorrei che questo contagio linguistico arrivasse a contaminare anche Mario Monti. Un appello, insomma, non ne possiamo più di sentire usare sempre le stesse parole che vengono logorate e svuotate di significato perché le si usa troppo. Grazie Gravelliere Della Valle, una puntata questa piena di appelli. Ennio Dall'Aquila, riesce a essere di una sintesi, proprio ratto come la folgore, Ennio? Sì, un attimo, questa crisi nazionale e internazionale si sta curando con il metodo del liberismo. Monti o Berlusconi, e Berlusconi ha ben fatto ridere, ma anche con il liberismo un po' più anacquato di Bersani. A mio avviso esiste un modo diverso di risolvere questa crisi. Qual è? È quella di investire sulla scuola, è quella di investire sui giovani. Lo spread non significa o niente se poi crea disoccupazione, disuguaglianza. Stiamo trasferendo ricchezze dai ricchi ancora ai più ricchi, quindi un Robin Hood al contrario, questa soluzione l'hanno creata loro signori, la fanno pagare ai poveri cristi. Allora un modo per uscirne è completamente diverso. Ci stanno i movimenti dell'acqua, i movimenti sociali che in qualche modo stanno affrontando. Cercano di mettersi insieme, ma anche la televisione, le radio. Sì, sì. È chiaro anche il tuo appello, Ennio, perché stiamo andando un po', stiamo tracimando con i tempi, perché io volevo chiedere alla fine a Oliviero Bea, grazie anche a te, Ennio. Oliviero, tu ce l'hai la villa bunker? No. Come no? No, io però contavo su di te nel caso. Vedere un po' di bunker, di bunker nei luoghi deputati per la fine del mondo dei Maya. No, perché tu sai che a Padova un imprenditore si è fatto costruire per la famiglia, per proteggere la villa bunker per il prossimo 21 dicembre. Io contavo su di te, dico magari vado da Oliviero se l'avessi questa villa bunker. In fondo chi non ha una villa bunker? Io ho un bunker spirituale nel quale ti accolgo volentieri. Bene, mi piace questo accoglimento, questa accoglienza. Io ti ringrazio moltissimo, Oliviero Bea, e vi do appuntamento per il prossimo sabato, che guarda un po', il 22, il giorno dopo. Quindi io appuntamento scaramanticamente ve lo do. Poi insomma, come sarà, sarà, e comunque sarà. Da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.